Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Questa mattina è troppo speciale per essere vissuta dietro a un banco. È così che inizia la mia giornata. Girovago per le strade della mia città. Ogni tanto mi guardo davanti, ogni tanto mi guardo indietro, con il terrore che qualcuno mi riconosca. Ciao, sono Alessandra, ho 16 anni e vivo a Pavia, dove studio al liceo classico. Ai tempi del ginnasio, la mia compagna di forca si chiamava Paolina. S'andava con la Vespina 50 verso il Montalbano a mangiare la schiacciata con la mortadella e poi a vedere il panorama di Vinci dal Leccio, un albero secolare che regge, ancora per poco purtroppo perché sta morendo, regge un cortile davanti a una chiesetta medievale, accanto a un cimitero degno di Spoon River. Sotto quell'albero, in quei giorni di scuola saltata, ognuno parlava dei propri amori difficili e poi ci si faceva delle sonore prese per il culo. Dopodiché si scendeva piano piano per le curve e si tornava a fare i compiti per il giorno dopo. Il trucco era mai due assenze di fila. Spero vivamente che anche i miei figli possano fare forca con questo spirito. 800240024. Oggi apriamo le linee telefoniche, oppure se volete mandare un messaggio 349-238-6666. La storia di Alessandra parla di una cosa che è comune a moltissime delle persone che hanno fatto una scuola soprattutto superiore, perché alle medie era difficile bigiare o marinare alla scuola, era una roba più da scuole superiori, quando si cominciava ad essere un po' più grandi, a sentirsi anche un pochettino più fighi. Ci sono mille modi per chiamare quella roba lì, forse il più comune è marinare alla scuola. Oggi, attraverso la storia di Alessandra, che tra l'altro la marina, la bigia, la salta, la giampa, come scrive lei, per un motivo ben preciso che ci racconterà lei, oggi avrei voglia di sentire tutte le vostre bigiate, marinate, bla bla bla, memorabili, quelle per cui ancora oggi ogni tanto vi capita di fare un sorriso, vi capita di avere un brivido se è stato qualcosa di pericoloso. Anche al telefono 800240024, 349-238-6666 per gli sms. Emanuele, ad esempio: a Ferrara si dice fare fuoco, ne ho fatti parecchi, ma uno in quinta liceo è stato l'incrocio di molti accadimenti futuri. Andammo al mare e al ritorno capottammo con la macchina. Chi era alla guida aveva la patente da 2 settimane ed era il protagonista dello scherzo della scorsa settimana. Che non ho capito cosa voglia dire. Ah, ok, c'era una mail, ok, era arrivata la stessa mail che ci aveva mandato Emanuele. Siamo stati un po' dei miracolati. Non ti dico, mia madre, alla notizia ha perso 20 anni di vita. Sono tornata a scuola dopo 20 giorni, quindi 20 giorni di convalescenza. Matematica e fisica erano ormai del tutto incomprensibili e mi buttai sulle materie letterarie. Ho ancora appeso al muro il referto del controllo con stampato in gigantesco neuro in alto a destra. Da allora, se chiudo gli occhi, tendo ad andare un po' a sinistra. Da allora, sempre a scuola. 800240024. Eravate dei ragazzini, si parla di 20 anni fa, magari 10 o magari 30. 30 anni fa erano gli... Sì, certo, figurati, perché no, uno di 50 anni ha voglia, anche uno di 60 può avere bigiato, marinato la scuola. Ed è successo qualcosa di particolare, magari ne avevate fatta più di una o magari ne avete fatta una sola, allora è più facile ricordarvela. Però siete usciti di casa, avete preso l'autobus e siete andati in un'altra direzione, siete andati in stazione. Dalle mie parti, a Novara, la cosa più semplice era pigliare il treno e venire a Milano, perché la città grande ti nascondeva e potevi poi raccontare che eri stato a Milano, anche se magari non raccontavi che giorno preciso c'eri stato. 800240024. Ce n'è uno che... eccolo qua, Angelo è il mio preferito di oggi, perché Angelo dice: io non ho mai bigiato, però se non bigi a scuola, poi prima o poi quella roba lì ti torna. Io non ho mai bigiato a scuola, ma da grande, qualche anno fa, con un gruppo di amici scooteristi, creatosi spontaneamente su internet, si partecipava al Fuga Treffen, ovvero un giorno infrasettimanale, senza dire niente a mogli, fidanzate e figli, si partiva alla volta di Lerici. Vorrei capire da dove partivate, Angels. Partenza la mattina in moto scooter, anziché andare a lavorare... si andava al mare, c'erano partecipanti dall'Emilia, dalla Lombardia, dal Piemonte e dalla Toscana. Mangiate di pesce e rientro per le 18. Lo si faceva faceva ad aprile ed è capitato di trovare bel tempo, sia bel tempo sia la neve sulla Cisa. Fu il mio primo raduno con quel gruppo dal quale non mi sono mai staccato. La cosa più divertente era vedere partecipanti che sotto l'abbigliamento tecnico avevano giacca e cravatta da ufficio. Questa roba io non l'ho mai sentita prima. Gente che fa le fughe dall'ufficio, tra l'altro con un gruppo spontaneo creatosi su internet. 800240024. La volta che vi è rimasta più impressa di quando avete marinato la scuola, per mille motivi: perché è andato storto qualcosa, perché invece qualcosa è andato alla grande. Qualcosa è andato decisamente alla grande ad Alessandra e ce lo racconta per questo. Bigiare, fare chiodo, bossare, bruciare, fare berna, fare filone, giampare, fare lippa, salare, fare fughino, stampare, marinare, fare forca. Tanti modi per dire la stessa cosa. Alzarsi alle 7 come una mattina qualunque, lavarsi e vestirsi di tutto punto, uscire di casa con i soliti mezzi dopo aver salutato mamma e papà, ma prendere un'altra direzione, che ahimè non è proprio quella che i tuoi genitori si aspetterebbero. Io studio al liceo classico, sono in terza superiore e quello che mi piacerebbe fare da grande è medico ginecologo. L'altra alternativa potrebbe essere la violinista, dato che studio al conservatorio, sono al settimo anno, però propendo più per la prima scelta. Perché quella mattina, questa mattina, è troppo speciale per essere vissuta dietro a un banco. È così che inizia la mia giornata. Girovago per le strade della mia città, ogni tanto mi guardo davanti e dietro con il terrore che qualcuno mi riconosca. Mi ritrovo alla mia prima vera e propria bigiata come una bambina che cerca di raggiungere in punta di piedi il vasetto di marmellata che la mamma le aveva proibito di toccare. Lei, testarda, sapeva che prima o poi ci sarebbe riuscita. L'unica cosa che le mancava era trovare l'occasione buona, quella giusta, che arriva sempre nella vita se una cosa la vuoi veramente. Quel giorno la piccola prese una sedia e si arrampicò, arrivando a sfiorare la scritta «Confettura di albicocche». Ma l'unica scritta che mi si presenta davanti questa mattina è quella di un bar che sembra chiamarmi a gran voce, tentando i miei buoni propositi di stare alla larga dei luoghi pubblici. Fa freddo, le vie del centro alle 8:15 sono già spopolate, la gente è rifugiata negli uffici, nelle scuole, oppure barricata in casa. E allora prendo il coraggio messo da parte nella giornata di ieri ed entro. Forse la mia faccia dice tutto, tanto che le bariste si guardano ridacchiando sotto i baffi. Ecco, in questi casi le ipotesi sono due. Il loro è uno sguardo di rimprovero oppure di invidia. Oggi sono positiva, perciò propendo per la seconda ipotesi. Probabilmente ricordano i loro 16 anni con un pizzico di rimpianto. Volendo fare le cose per bene, nello zaino ho perfino il libro di matematica. Gli esercizi non mi vengono comunque, ma almeno inganno il tempo. Sì, perché sto aspettando con ansia le 9. Ora in cui mi raggiungerà il mio migliore amico che, dopo la verifica di fisica alla prima ora, mi farà compagnia fino all'ultima. La colpa, diciamo così, di questo progetto per un'ultima giornata di ottobre, con un sole autunnale ideale per queste cose, in gran parte è sua. Oltre a ridere per ore e ore e parlare di tutto con lui, ho intenzione di fare un discorso serio, che riguarda proprio noi due. Amici o forse qualcosa di più. Ecco, anche per questo questa mattina non potevo proprio entrare al liceo. Ed eccoci qua, alla fermata dell'autobus, 9:10 precise. Guardarci attorno con aria sospetta. Prendiamo il 3 e arriviamo alla piscina fuori città. Le successive 4 ore sono la mattina più concludente della mia giovane vita. È semplicemente una persona speciale perché è la prima che mi conosce al 100%. E mai pensavo che un essere di sesso maschile potesse capirmi così tanto. Comunque lui è particolarmente speciale perché mi ha fatto sentire una principessa dal primo momento, cosa che prima aveva fatto solo l'unico uomo della mia vita, cioè mio padre. Ci sediamo sui divanetti e alla fine della mattinata, saltando ovviamente qualche passaggio e un bacio in mezzo, io e lui stiamo insieme. Già, la mia prima vera storia seria inizia con una bella bigiata. Ecco come, la bambina aprì il coperchio e intinse due dita a mo' di cucchiaino nel vasetto pieno. Una volta assaporata e gustata la marmellata, chiuse il tappo, si leccò le dita ancora fino a non lasciare più alcuna traccia e per tutta la mattinata ricordò quell'ottimo sapore. A me, sulle labbra, è rimasto quello del mio nuovo ragazzo e un grandissimo senso di libertà. Bubblegum and house parties when you stole your parents from a tried this way and go beat each other up on the dance floor. Told us drugs were no good. Questa cosa che sto per dire, lo so, può sembrare falsa o può sembrare buonista o semplicemente inutile, ma è vera. Io non ho mai bigiato in vita mia. Ma non è finita qui, perché non ho mai bigiato in vita mia e oggi, che non ho più la possibilità, me ne pento. Un attimo, non voglio che questa puntata sia un'apologia della trasgressione, lungi da me. Semplicemente credo fermamente che disobbedire un po' da giovani aiuti a diventare un po' meglio da grandi, un po' meglio a vivere, un po' meglio a diventare migliori da grandi. C'è un episodio proprio di quando andavo al liceo e avevo più o meno l'età di Alessandra, grosso modo, e ecco, questo episodio spiega il senso di questo ragionamento. Seguitemi. Io ero davanti a scuola ed ero con un compagno che non era un amico particolarmente stretto, però lo stimavo abbastanza da stare ad ascoltare quello che aveva da dirmi. Quel giorno c'era un compito in classe di fisica. Quella era una prova che doveva essere orale, ma per far recuperare voti e tempo, la professoressa aveva deciso di renderla scritta. Io avevo studiato, ma non mi sentivo preparato. Lui mi guardò e mi disse: «Prendiamo il treno e andiamo a Milano e chi se ne frega». Io, in virtù di non so quale senso del dovere, gli dissi che no, io sarei entrato. E quindi feci il compito. Il compito di fisica andò così così, presi una cosa tipo 5 al 6 o 6 meno, mi pare. Il giorno in cui ce lo consegnò, poi, la prof fece un discorso molto serio sulle responsabilità dell'essere adulti e su come chi non si era presentato in classe quel giorno fosse venuto meno a quelle responsabilità. Era un bel discorso e pensai che lei aveva ragione. Poi però, quello stesso giorno, all'uscita da scuola, mentre aspettavo l'autobus per tornare a Romentino, vidi a un certo punto una Renault Twingo gialla arrivare al semaforo, fermarsi perché il semaforo era rosso, e poi lentamente andare oltre la linea dello stop. E dopo aver verificato che non arrivasse nessuno da destra o da sinistra, svoltare a destra prima che la luce diventasse verde. Ecco, quella Twingo gialla era guidata dalla mia professoressa di fisica e io mi arrabbiai da morire. E non mi resi nemmeno conto del motivo all'epoca. Oggi però mi è molto più chiaro. Il motivo è che io ero stato rigido con me stesso e pretendevo che lo fossero tutti, come me, con me, con loro stessi, con il mondo intero. E ancora oggi, quando vedo, che so, un'auto dei vigili parcheggiata male, oppure vedo un tizio in Parlamento che dice una cosa e poi fa tutt'altro, a me viene una morsa allo stomaco che è esattamente la stessa di quel giorno. E sembra non c'entrare niente la storia di Alessandra con quella della mia rabbia, e invece c'entra. Perché fino a che io non troverò un'altra risposta, io continuerò a pensare che se quel giorno avessi bigiato la scuola, se fossi stato un po' più indulgente nei miei confronti, lo sarei stato anche nei confronti della prof, della sua Twingo gialla e di quella sua manovra azzardata. E ora probabilmente lo sarei nei confronti di tutti quelli che rappresentano qualcosa e non possono sbagliare e invece sbagliano. Perché è normale, perché succede a tutti. Ecco perché penso che disobbedire ogni tanto, anche solo non andando a scuola per incontrare un amico, sia sano e ti regali un grande potere. Il potere di farti sentire normale e fallace. E sapere che puoi sbagliare tu o che hai sbagliato anche tu ti fa essere un po' più tollerante con gli altri, coi loro errori e con la loro fallabilità. When I'm out walking, I strut my stuff and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Let me go on, like I glister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. Let me go on. La foto la trovate come al solito sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. E questa volta Alessandra ha fatto una cosa che anche, insomma, che ci sta in questo caso. Non è un autoritratto, non è un autoscatto, non si vede la sua faccia, insomma. Si vedono due coppie di piedi, quattro piedi accavallati, cioè quattro piedi quindi vuol dire due persone, con i piedi mi stavo intorcinando, due paia, due coppie. Quante persone c'erano in quel po'? Due persone con le gambe allungate e i piedi appoggiati al divanetto, sì, perché sembra un divanetto più che un sedile di un treno o di un tram, sai, tipo, ehi, per piacere, può tirare giù i piedi, eh? Grazie. quando arriva il controllore. In questo caso si vedono i suoi, che sono più piccoli e indossano delle Vans, e quelli di lui invece, addirittura con i pantaloni corti e i peli sulle gambe, che indossano delle New Balance. Bigiare, verbo transitivo, marinare la scuola. Etimo, incerto. Data, 1839. Vabbè, ma questo è da milanesi. Noi bigiamo la scuola, io bigiavo la scuola. A proposito di termini, come si dice appunto, bigiare dalle parti del milanese e del piemontese. Nel mantovano si chiama sgricci. Dalle mie parti Lecco si diceva attaccare e poi fare vola. E poi c'è questo messaggio di Rocco che scrive: a Teramo si dice fare cuppo. Aggiungi pure la tua ennesima lista. In quinta liceo mi sono sistemato una vecchia Ford Escort e la mettevo a disposizione di chi metteva la benzina. Chi voleva fare cupo e magari andare al mare non aveva altro da fare che condividere auto e autista. Oppure Marco dice: qui dalle mie parti, provincia di Cuneo, si dice tagliare. Mai fatto, più che altro perché i salesiani dove andavo costavano parecchio e oltretutto per fare un'assenza dovevi fare telefonare da casa, altrimenti chiamavano direttamente loro e ti pinzavano subito. Direi altro motivo per fare scegliere la scuola pubblica anche al giorno d'oggi. 800240024. Abbiamo una telefonata. Da quant'è che non prendiamo telefonate? Un paio di settimane, mi sa. Andiamo da Francesco, da Caserta. Niente, ne avevo due e leggevo. Pronto, Francesco? Sì, Matteo. Ciao, come stai? Ciao, bene, tu? Bene, grazie. Dove ti trovi? Sembri in un sottoscala, no, Francesco. Sono in ufficio a lavorare. Che lavoro fai? Ma sono un agente di commercio. Oggi sto mettendo a punto un po' di carte dopo un viaggio. Quindi tu ascolti anche in ufficio, ma immagino ascolti soprattutto in automobile, però. Sì, ascolto in radio, ti ascolto in macchina, in cucina. E cosa vendi, Francesco? Parchi giochi per bambini. Ah, ok. Allora, no, e non sei il primo che abbiamo sentito che vendeva... Funziona? Vanno giochi per bambini? Sì, abbastanza. Senti, raccontami... Ti facevo divertire. Raccontami, perché tu hai tu hai bigiato in quarta elementare. Sì, è stato il primo di una lunga serie, però io le prime cose non mi sono mai piaciute, però questa mi è rimasta impressa. Preferisco sempre le seconde, le terze, le quarte che vengono meglio, però questa è stata bellissima. Quarta elementare. C'aveva una supplente che dettava, si facevano i dettati allora, 1971, sì. E dettava velocemente, noi non riuscivamo a seguirla. Quattro di noi, contestatori allora e contestatori anche oggi, il giorno successivo abbiamo fatto filone, come si dice dalle mie parti. È stata una cosa incredibile. Ma scusami, dove siete andati a 9 anni? Cosa? Dove siete andati a 9 anni? In un boschetto che era alle spalle della scuola e siamo stati lì per 4 ore a rincorrerci, a giocare, ad arrampicarci, è una cosa fantastica. E scusami, e le giustificazioni come sono arrivate poi? No, non c'erano giustificazioni in quel momento, assolutamente nessuno le chiedeva. Eravamo ammalati, forse il giorno dopo siamo tornati, nessuno ci ha chiesto niente, però gli amici lo sapevano. Quindi nessuno vi ha chiesto niente e quando la tua madre quando l'ha saputo? Non l'ha saputo. Non l'ha mai saputo, benissimo. No, l'ha saputo poi. Ah, ok. Ok, scusami, la contestazione quindi non è stato dire per piacere può andare più piano, è semplicemente non ci presentiamo più a scuola. Esatto, però il giorno dopo pure gli altri si sono lamentati. Va bene, Francesco ti ringrazio moltissimo, in bocca al lupo. Ciao, grazie, ciao. Andiamo ad Ascoli Piceno da Enzo. Pronto Enzo? Ciao Matteo. Ciao, come va? Ciao, benissimo, benissimo. Tu quando salavi la scuola andavi a sciare in Vespa? Allora, noi siamo qui di Ascoli e sopra Ascoli ci sono gli impianti sciistici. Siamo Scusami, di che monte? Allora, si chiama Montagna dei Fiori, ribattezzata un comprensorio Monti Gemelli. Monti Gemelli, ok. Sì. Vabbè, ma quanto è alto, scusami? Enzo? 1700 metri. Ah, vabbè, si scia tanto, quindi. Beh, sì, però immagina che noi siamo a distanza linea d'aria dal mare non più di 30 km. Ok. Quindi si scia e si può osservare il mare, bellissimo. Insomma, il posto migliore al mondo, le Marche. Ah, stranezze, sì, a me piace moltissimo. Le Marche sono la nuova Toscana. Speriamo. Le Marche mi dice è la nuova Umbria, che era la nuova Toscana. E quindi vabbè, tra un po' ci saranno le nuove Marche, ma chi se ne frega. La cosa interessante è che tu adesso, dopo aver bigiato quante volte ed essere andato a sciare... Ma per noi era abituale, che poi tu conta, non è facile vestirsi, cioè c'è bisogno di un abbigliamento tecnico. Lo immagino. E in più bisogna anche non farsi scoprire quando torni a casa. E quindi come facevate? quindi se non rubo molto tempo, e l'operazione era questa: calzamaglia sotto i jeans normali, sì, una giacca a vento pesante, sopra prima c'erano c'erano i K-Way, quelli leggeri, completo di K-Way per sciare, freddo comunque, nella borsa gli scarponi sotto, e poi sopra negli anni 70 c'erano le borse militari, no? Ricordi? Sì, andavano, no, sì. Non lo so se c'erano questa moda, quindi pochi libri perché non si andava, scarponi, guanti, e poi si andava a sciare in due sulla stessa Vespa. La tecnica era appoggiare gli sci, il fondo degli sci sulla parte anteriore, il passeggero teneva il guidatore e gli sci. Quindi io avevo come guidatore della Vespa due paia di sci sulle spalle, guidavo la Vespa col parabrezza. Ok, va bene, c'è una roba come il circo, che se vi fermavano vi mettevano in carcere. Adesso però, Enzo, diciamo, quello che viene fuori da tutta questa storia è che ora sei maestro di sci. La passione è stata troppo forte, quindi dico, salare è stato era emozionante perché poi si andava a fare quello che ci piaceva, però poi dopo la fine, vedi, nella vita... Ti ha creato una possibilità in più, Enzo, ti ringrazio molto. Grazie. Buona giornata, ciao, grazie. Ciao, c'è qualcuno che scrive: ti odio che mio figlio qua di fianco mi ha detto che domani non va a scuola. Caterina dalla provincia di Torino, ciao Caterina, abbiamo pochissimo, abbiamo veramente solo mezzo minuto, però voglio sapere dove sei andato quando hai bigiato il congresso internazionale a Barcellona. Sì, io sono un chirurgo, dovevo andare a Barcellona con dei colleghi ad un congresso, il giorno prima ho deciso di non andare. E quella mattina hanno operato un ragazzo bellissimo che io ho curato nel post-operatorio, e un mesetto dopo ci siamo fidanzati e 6 mesi dopo ci siamo sposati. Grazie Caterina, in bocca al lupo. Ciao, grazie. Grazie a Fabio Cantadori, grazie a Tiziano Bonini, grazie a Margherita Hina. La storia di oggi era di Alessandra e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao, mi chiamo Lorenzo e vivo a Rimini. La storia di domani è la mia e parla di disattenzioni. Questa è la mia storia e io sono qui